24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la disoccupazione nel vecchio continente che tocca nuovi record. A preoccupare anche in Italia, soprattutto la disoccupazione giovanile. Vi aggiorneremo sui temi economici del momento, novità soprattutto da Spagna e Grecia, mentre dall'Asia il premier italiano Mario Monti chiede alle potenze emergenti di giudicare con maggiore rilassatezza la crisi europea. L'Europa verso l'allentamento delle sanzioni alla Birmania, mentre in Ungheria il presidente è costretto alle dimissioni. Infine parleremo di agenda digitale. Il tasso di disoccupazione nell'Unione Europea a 17 nel mese di febbraio è salito al 10,8% rispetto al 17% di gennaio. A comunicarlo Eurostat, era al 10% nel febbraio 2011. Nell'Unione a 27 il tasso è salito al 10,2%, mentre nel mese di febbraio 2011 era al 9,5%. Tra gli Stati membri la disoccupazione più alta si registra sempre in Spagna, segue la Grecia, mentre l'Irlanda è al 14,7% e il Portogallo al 15%. L'Italia è al 9,3%. Questo elevato livello di disoccupazione ci preoccupa. Occupa così Amadeu Altafaj Tardio, portavoce del commissario europeo all'economia Olli Rehn. Si tratta del livello di disoccupazione più alto nella zona euro dal giugno 97, ha aggiunto il portavoce. Sentiamo ora il servizio. Non è un paese per giovani. I dati sulla disoccupazione diffusi stamattina dall'Istat confermano il fatto che per i giovani italiani l'entrata nel mondo del lavoro è davvero difficile. In generale il tasso di disoccupazione a febbraio, fanno sapere i ricercatori, è stato del 9,3% in Italia, in rialzo di 0,2 punti percentuali su gennaio e di 1,2 punti su base annua, mentre nel quarto trimestre del 2011 il tasso è stato pari al 9,6%, il più alto da 12 anni. Ma quello che preoccupa ancor di più è il tasso di disoccupazione giovanile per le persone che hanno fra i 15 e i 24 anni, che a febbraio è stato del 31,9%, in aumento di 0,9 punti rispetto al mese precedente e di 4,1 punti su base annua. Se poi si guarda al quarto trimestre 2011, il tasso sale al 32,6%, un giovane su tre non trova quindi lavoro. Per trovare un dato così alto, infatti, bisogna andare indietro di quasi 20 anni, al quarto trimestre del 1992. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le autorità di vigilanza europee e nazionali devono avere un margine di flessibilità nell'applicazione delle regole di Basilea 3 per poter chiedere temporaneamente requisiti macro prudenziali anche più importanti al fine di prevenire e limitare rischi specifici. È quanto si legge in una lettera inviata dal presidente della BCE Mario Draghi alla Commissione europea e al Parlamento europeo. La Germania vuole porre la disciplina di bilancio degli Stati membri dell'Unione sotto il controllo di commissioni di esperti indipendenti. Lo afferma il settimanale Der Spiegel, citando come il ministro delle Finanze, Wolfgang Schäuble, punti a proporre la creazione di queste commissioni, sia a livello nazionale che europeo, con il compito di lanciare l'allarme su sviluppi anomali capaci di innescare crisi finanziarie. Il premier iberico Mariano Rajoy ha ribadito la volontà di centrare gli obiettivi di riduzione del deficit di bilancio appena negoziati con l'Unione. È assolutamente indispensabile ridurre il deficit al 5,3% del PIL, ha affermato Rajoy, difendendo il piano di bilancio 2012 presentato la scorsa settimana, che prevede economie supplementari pari a 27,3 miliardi di euro. Non rinunceremo a questo obiettivo, ha insistito. E la data più probabile per le elezioni in Grecia è il 6 maggio, a riferirlo una fonte del Ministero delle Finanze in attesa di un calendario ufficiale. A differenza del caso greco, abbiamo agito in modo diverso, anticipando tra l'altro il pareggio di bilancio. Anche questo l'ha detto il premier Mario Monti, che state ascoltando, nel suo intervento al BOAO Forum for Asia, la Davos d'Oriente. Sono volato in Asia, questo è il messaggio di Monti nell'ultimo appuntamento prima del rientro a Roma, per chiedervi di rilassarvi un po' sulla crisi dell'Eurozona, che è superata anche grazie al più solido sentiero imboccato dall'Italia. E ora i mercati finanziari. Borse europee in recupero sul finale, confortate dall'andamento dell'attività manifatturiera in Cina e negli Stati Uniti. Milano tuttavia ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,2%, facendo peggio degli altri mercati a causa dell'andamento debole delle banche. Parigi è salita dell'1%, Francoforte di oltre 1,5%. Sentiamo. Borse europee in recupero sul finale, confortate dall'andamento dell'attività manifatturiera in Cina e negli Stati Uniti. Milano ha tuttavia terminato le contrattazioni in calo dello 0,2%, facendo peggio degli altri mercati a causa dell'andamento debole delle banche. Eccezion fatta per MPS, che ha registrato un progresso dell'1,99%. Venerdì scorso la fondazione MPS ha fatto sapere di aver ceduto l'11,45% prestito del capitale a una serie di investitori privati. A Piazza Affari sono andate male le Fiat, meno 1,2%, nell'attesa dei dati sulle immatricolazioni di marzo. A borsa chiusa poi è stato reso noto che le vendite sono diminuite per il gruppo del 35,6%, contro il calo complessivo del mercato del 26%. Hanno invece fatto bene le Pirelli, salendo di oltre il 4%. Enel, meno 1,18%, ha aggiornato i minimi storici, risentendo dei timori per l'impatto delle misure prese dal governo spagnolo sui conti della controllata Endesa. Infine sono state gettonate le Ferragamo, più 2,8%, e le Luxottica, più 0,66%, insieme al settore europeo del lusso. Fuori dal paniere principale hanno invertito rotta le Mondo TV, meno 17%, dopo la volata della scorsa settimana innescata dall'inizio dell'aumento di capitale. Eleonora Micheli da Radio Corp, per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Dall'estero il ministro dell'interno francese Claude Guéant ha reso noto di aver disposto con effetto immediato l'espulsione dal paese di 3 imam e di 2 militanti islamici radicali. L'Unione Europea riesaminerà a fine mese le sanzioni alla Birmania e potrebbe inviare un segnale positivo alle autorità locali dopo le storiche elezioni suppletive di domenica. A dichiararlo uno dei portavoce. L'attuale regime di sanzioni comunitarie scade a fine aprile, pertanto dovrà essere riesaminato. Vi è grande attesa per un segnale positivo. Abbiamo già revocato parzialmente le sanzioni contro la Birmania, ha ricordato la portavoce comunitaria Maya Kocancic. Dopo il congelamento dei fondi strutturali da parte dell'Unione Europea, un'altra grana si presenta per il governo ungherese di Viktor Orbán. Il presidente Schmidt, esponente del partito di destra Fidesz, è stato infatti costretto alle dimissioni. Dopo meno di 2 anni dalla nomina, il presidente Schmidt ha dovuto cedere le armi e uscire di scena a causa di una tesi di dottorato vecchia di 20 anni, a quanto pare copiata all'80%. La vicenda era esplosa dopo la denuncia del settimanale di opposizione HVG, ma è precipitata dopo che l'indagine interna dell'università Semmelweis si è conclusa con la clamorosa revoca del titolo di dottore al presidente della Repubblica. 69 anni, poliglotta, uomo di fascino e grande popolarità, grazie a 2 ori olimpici, altrettanti campionati del mondo vinti tra il 68 e il 72 nella spada, Paul Schmidt è diventato capo dello Stato dopo la travolgente vittoria della destra Fidesz del premier Viktor Orbán. In base alla Costituzione, ha detto dimettendosi, il presidente deve rappresentare l'unità della nazione. Io purtroppo sono diventato un simbolo di divisione. L'opposizione ora festeggia, ma i problemi del paese non andranno certo via con il ritiro dell'ex campione di spada, bruciato proprio da una tesi sui Giochi Olimpici. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E in chiusura parliamo dell'agenda digitale. Nel 2010 l'Unione Europea decise che per far crescere l'economia continentale e creare nuovi posti di lavoro era necessario promuovere un vasto programma per sviluppare l'economia digitale. Il piano si chiama Agenda Digitale e pone obiettivi ambiziosi per il 2020, 101 azioni che toccano tutti i settori privati e pubblici. Ogni nazione avrebbe dovuto o dovrebbe declinare queste azioni in un piano nazionale coerente con quello di Bruxelles. Non tutti lo hanno fatto e noi siamo, indovinate, tra i ritardatari. Il 9 febbraio, quasi 2 mesi fa, a Roma c'è stata la prima riunione di quella che è stata definita cabina di regia per l'agenda digitale italiana. 3 ministeri coinvolti, sviluppo, funzione pubblica e istruzione, che entro giugno dovrebbero varare il decreto Digitalia, norme in materia di connettività per azzerare il digital divide, pubblica amministrazione digitale, sanità, pagamenti, commercio elettronico, eccetera. Fra poco dovrebbe andare in linea un sito web per seguire i lavori e speriamo poter proporre le proprie idee. Ma visto che mancano 3 mesi alla fine di giugno, da più parti arrivano sollecitazioni al governo perché rispetti i tempi e fra 9 giorni Confindustria Digitale farà il punto al primo forum sull'agenda digitale italiana. Nei prossimi giorni lo faremo anche a Radio 24. Domani i progetti per portare internet veloce in tutta Italia. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.